everybody, this is John Connolly of Nuclear Assault. You are listening to Under Oath on Do It Yourself Radio. Please call in your support. Bella raga, sono Pietro. Anche di Solo Vinili Libri, io ascolto Do It Yourself Invasion, Radio Onda Rossa, dai! Ciao, io sono Roberto di Tutti i Pazzi Fanzine e anch'io ascolto Do It Yourself Invasion, lotta dura per la verdura! È la regione intermedia tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione. Tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la regione dell'immaginazione. Non delegare, partecipa. Ci siamo? Allora, 21 e 18 minuti. In leggero ritardo, visto che ci mancava un fulmine che andava a colpire direttamente il tetto di Radio Onda Rossa e quindi è zompato tutto. Siete sempre sintonizzati sulle 87.9 in FM di Radio Onda Rossa della banda romana e laziale ed in diretta streaming sul restante globo terracqueo, streaming ascoltabile dal sito www.ondarossa.info. Sito attraverso il quale, oltre a ascoltare la radio in streaming, potete rimanere aggiornati con tutte le corrispondenze che vengono registrate nell'arco della giornata, i podcast delle trasmissioni, nonché potete sostenere alla sopravvivenza di questa radio, nata libera nel 1977 e che da allora va avanti senza padrini, senza padroni, senza pubblicità. Grazie al libero contributo di redattori e redattrici. Radio che sta attraversando un periodo di particolare difficoltà. Quindi invitiamo tutte e tutti a sostenerci. Quindi attraverso il sito potete andare a cliccare su Sostieni, sarete indirizzati ad una pagina di PayPal. Abbiamo anche attivato una nuova forma attraverso la quale potete sostenere questo progetto. E quindi dalla piattaforma Produzioni del Basso c'è una pagina di Onda Rossa. Quindi vi invitiamo a sostenere anche attraverso questa modalità, a diffondere questo nuovo modo. Solo detonazione, tra parte per la strada, asfalto e pallone. non per ultimo il nostro storico conto corrente postale, il 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volci 56 00 185, Roma San Lollo. Ricordiamo l'email di redazione ondarossa@ondarossa.info, nonché l'email della trasmissione fantasma@ondarossa.info. Quindi scriveteci per segnalarci iniziative, proporci le vostre autoproduzioni. Sotto sentiamo gli Atti Vandalici, che ringraziamo da tutta la redazione perché proprio a sostegno di Radio Onda Rossa. Ci hanno fatto un gradito dono. Potete trovare pertanto il primo lavoro degli Atti Vandalici sul banchetto della radio. Atti Vandalici, atto primo. Street Punk da Ostia, Pischelli, Rozzi Fracichi. E quindi grazie ancora. E Do It Yourself Invasion, venerdì scorso è andata in trasferta. Girare questo mondo, penso al buio di un profondo. Ed è andata all'XM24 di Bologna. Per un'iniziativa organizzata da Frigotecniche. Un collettivo appunto che opera all'interno di XM24. Quindi una bella iniziativa veramente, con sul palco i Loia da Firenze, i Miotic da Bologna, le Tormenta da Forlì, Cayman The Animal da Roma e sempre da Roma Lily Refrain. Noi abbiamo ben pensato, oltre che andare lì insomma e conoscere i compagni e le compagne dell'XM, abbiamo pensato di registrare il concerto e vi facciamo ascoltare qualche estratto, speriamo che la qualità sia decente. Ed iniziamo con i Miotic. Da Bologna, Miotic live all'XM24. Questo era il primo estratto dal report live dello scorso 19 febbraio in quella dell'XM24 a Bologna. Grazie per essere qui. Poi insomma i concerti saranno pubblicati sul sito in versione integrale, quindi insomma se volete ascoltarli per intero li troverete sul sito tra qualche giorno. E passiamo al secondo gruppo che abbiamo visto a Bologna. Loro sono i Loia da Firenze, ci sono veramente piaciuti e li abbiamo conosciuti insomma sul palco, veramente interessanti, batteria, chitarra e voce e basta. Da Firenze, loro sono i Loia. We'll be right back. E questi erano i Loia da Firenze. Abbiamo avuto modo anche di conoscere il collettivo della Saletta Autogestita nei sotterranei dell'XM. E tra i membri del collettivo ci hanno accudito e coccolato i ragazzi di Repressione. Qui ce li ascoltiamo da un'anteprima del loro prossimo lavoro, Fuoco. Quindi un abbraccio a Repressione. Questa è 13-12. Quindi questo era il pezzo in anteprima del prossimo lavoro di Repressione. Andremo a parlare poi meglio di cos'è, insomma, il collettivo autogestito della Saletta sotto l'XM, magari con i diretti attori di questo nuovo collettivo. Ma abbiamo in linea un ospite. Ciao, buonasera a tutti e tutte. Devo fare veramente in fretta perché così ultimamente non mi avete sentito molto sugli 87.9 di Onda Rossa. Buonasera Mastello. Buonasera. Niente, io volevo solo così salutarvi e dirvi che sabato scorso ho preso parte a diciamo l'incontro dei pelati, delle bretelle e dei punks, anche in quello della Scatazuna, dove suonavano i Bull Brigade, che presentavano il disco insieme a Gavroche, Sempre Peggio, gruppo milanese oi da poco formatosi, che proveniente da quel di Milano, ed è stata una figata incredibile. Dove Mastello? Dove hanno presentato questo nuovo disco, che veramente dopo è sempre da pelle d'oca, che appartiene un po' a tutte quanti, chi frequenta i gradoni dello stadio, a chi piace la birra e a chi si sente un po' appartenente alle metropoli, perché si vive la strada. E c'erano 500 persone, sono di più, da tutta Italia, e niente, è stata un'occasione per rivedere tante persone. I Bull Brigade tra l'altro faranno una data a Roma, guardate sui loro siti ufficiali. Già li abbiamo contattati, probabilmente passeranno qui per gli studi di Radio Onda Rossa per una chiacchierata, quindi... Ecco, mi dispiace essere così di fretta, perché vorrei raccontarvi veramente un sacco di cose, perché è stata una serata veramente incredibile. Io tra l'altro poi ho dormito tipo 2 ore e molti hanno fatto la stessa cosa. E niente, io non so se tu hai già passato un pezzo dei Sempre Peggio, uscito ce l'ho, oggi, ce l'ho pronti così. Ecco, è uscito proprio oggi. Io consiglio anche di seguire Sempre Peggio, pure loro stanno facendo un botto di date. E niente, saluto, ti abbraccio tutti e tutte, e dai raga, dai, a presto. Allora fatti abbracciare, fatti risucchiare dai ritmi della produzione, ecco. Mi raccomando, va bene, dai, un abbraccio a presto forte a Radio Onda Rossa, e niente, continuate a seguire Do It Yourself Invasion. Ciao ragazzi, dai, ciao. E vabbè, ci prendiamo una parentesi mastelliana dal report live all'XM. E passiamo appunto, consigliati dal Mastello, i Sempre Peggio. E noi continuiamo con gli estratti live. Oh ragazzi, iniziamo! Da Forlì, le Tormenta, live XM24. Anche se sono stato poco tempo fa, comunque grazie per essere qua. Sempre bello ritrovare i posti, le situazioni, gli amici. Quindi grazie, prima ancora di iniziare, per essere qui. Grazie. Evviva gli amici e le amiche! Yeah. grazie. Stiamo ascoltando sempre degli estratti live dal concerto all'XM24, sono le Tormenta sotto che vanno da Forlì. Neve. Come detto prima, troverete poi i concerti integrali sul sito di Radio Onda Rossa. proseguiamo il prossimo pezzo, accettare e resistere l'ingranaggio. Andiamo a chiudere così con i Le Tormenta questa prima parte dedicata al live dell'XM24 di Bologna. Quello che di fare è tenere vivo un underground che piano piano sta morendo, portato via dal circuito dei locali commerciali, dei dischi ristampati che vendono un sacco di copie e la gente non frequenta più i posti dove questi prodotti sono stati creati. Quindi grazie a voi per essere venuti, per supportare tutto questo, per supportare XM24 e tutti i posti che ancora mantengono un'anima contro il grigiore che ci circonda. Grazie. Ale! E questo sabato 27 febbraio ricordiamo l'appuntamento al, per il presidio al CIE di Ponte Galeria, quindi a 2 mesi dalla rivolta che ha portato alla distruzione della sezione maschile, detenzione ed espulsioni di donne verso Egitto, Tunisia, Marocco e Nigeria sono incessanti. Come ogni mese non mancherà la nostra solidarietà alle recluse. E quindi alle ore 15 l'appuntamento a stazione Ostiense per andare davanti alle mura del CIE e poi tornare tutti insieme. Sempre questo sabato 27 febbraio. A Torre Maura occupata. Net Goes Punk, una serata a sostegno delle lotte dei prigionieri Notav. Quindi dalle ore 20 si inizia con una cena vegan e poi dalle 22 il concerto a sostegno delle lotte Notav con i Mefitica, Leviathan, Flick Dance La Tête di Torino, i Ceneri e i Social Trauma che ascoltiamo in sottofondo e ci riascoltiamo da capo dall'ultimo lavoro ancora non uscito ma che potete ascoltare per ora su internet in streaming. Questa è Illusione e Repressione, loro sono i Social Trauma, questo è sempre Radio Onda Rossa. Loro dal vivo sono sempre una bomba. Social Trauma da Paliano. E cogliamo l'occasione per salutare la 1% Crew. E poi qualcuno di loro era presente sabato scorso in una bellissima veramente iniziativa che abbiamo realizzato insieme ai compagni e alle compagne del centro sociale occupato autogestito IPO di Marino, insieme a Scheletro Hostiliter, Lud Rising e Malclango. Un ringraziamento a tutti loro perché hanno veramente spaccato una bellissima atmosfera di quelle serate che, insomma, a fine serata rimani con gli occhi lucidi, veramente. Un abbraccio a tutte e tutti quelli che hanno partecipato. Grazie. E noi continuiamo con la presentazione dell'iniziativa Benefit che ci sarà a Torre Maura. Loro sono i Flick Dance Latet di Torino. Qui ce li ascoltiamo con un brano estratto da una compilation a cui siamo molto legati, Non un sasso indietro. Credo sia andata esaurita. Insomma, una compilation che ha unito diverse realtà in giro per l'Italia. Compilation coprodotta anche da Radio Onda Rossa. E ricordiamo il favoloso tour Non un sasso indietro a sostegno delle lotte No Tab. Ricordiamo, Radio Onda Rossa ha organizzato una delle due iniziative a sostegno delle lotte No Tab, appunto una delle due date che ci sono state a Roma, una al Forte Prenestino organizzato da Radio Onda Rossa, l'altra a Torre Mauro occupata. E loro sono i Flick Dance Latet. Intorno, insieme, lo monte il comatere, siamo tutti le blu, lo sviro nel cantiere, sema, se sa, ci arriva Nino Tav, ale, ale, ale, ale, ale! 22:15 in pieno territorio Apostasia. Quindi non temete, sono pronti qui già negli studi di Radio Onda Rossa. Li conoscete, sono troppo buoni. Insomma, ci fanno recuperare i disastri generati dal dio Thor che bestemmiamo, insieme a tutte le altre divinità che vi vengono in mente. Gran signori gli apostati, gran signori. Sempre in quel di Torre Maura, il prossimo 27 febbraio potrete ascoltare i Leviathan. 23:20, andiamo a chiudere questa puntata di Do It Yourself Invasion. Ringraziamo tutte e tutti all'ascolto. Il nostro saluto più caro va a tutte e tutti coloro che si trovano privati della loro libertà personale. E vi lasciamo con un nuovo progetto che viene dai Contrasto di Cesena, che hanno staccato ogni strumentazione elettrica, e quindi un progetto acustico dal titolo Labile Istante di Vuoto. Quindi rimanete all'ascolto, tra pochissimo Apostasia. E ancora a vivere di immagini, stesso respiro, discorsi già sentiti, la quotidiana forma dell'interesse, mascherato, muto e consapevole, ieri oggi domani la vera. Sacrificio per vedere il sangue, amara delusione per le tue parole, l'amara delusione. Guardo più in alto in questo labile istante di vuoto. Guardo più in alto in questo labile istante di vuoto. Questo labile, in questo labile.